richiesto di dare un brevissimo profilo di se stesso, da stampare in una nota finale degli atti di un convegno storico-giuridico tenutosi qui a Trento nell'ottobre del 79, convegno nel quale aveva svolto una relazione sul tema autonomie e nazionalità nella monarchia austro-ungarica, Ernesto specialmente sotto l'aspetto istituzionale, della storia dei comuni italiani medievali, principalmente toscani, della origine delle signorie in Italia, del pensiero storiografico sette-ottocentesco italiano ed europeo, della storia tedesca del 700 e 800 e di quella asburgica nel secolo scorso, con particolare riguardo ai problemi delle nazionalità. Nessun cenno specifico a studi di storia del Risorgimento, pur se si induce di per sé che questa storia ricade necessariamente nell'attenzione posta al pensiero ottocentesco italiano ed europeo e alla storia tedesca ed austriaca del secolo XIX, che accompagna quella contemporanea italiana, a volte in divergenza, a volte in parallelismo. Ma su ciò ritorneremo. La radice è di studioso medievista, nella tradizione di Salvemini e di Volpe, ma aperto al Risorgimento, scrisse di Ernesto Sestan lo Spadolini, ricordandone il magistero sulla nuova antologia, un'apertura e un'esigenza morale e civile di comprendere il Risorgimento, sembra a noi di dover aggiungere, più che di narrarne la storia degli eventi. Sestan non si è sentito sollecitato, né è stato trascinato ad aver prevalente attenzione per gli eventi che scandirono il processo di unificazione politica e statale della nazione italiana. Il processo verso l'unità gli appariva tanto logicamente coerente con i tempi e tanto ineluttabile da fargli oltrepassare la ricerca storica tendente ad un approfondito dettaglio conoscitivo dell'impegno che singoli protagonisti o gruppi svilupparono con le loro azioni, diplomatiche o militari, per promuovere e compiere l'unificazione nazionale. Non è certamente che egli disdegni questo percorso storiografico, ma teme e ne avverte più volte che esso non esaurisce di per sé stesso la conoscenza e la comprensione del Risorgimento, che è qualcosa di ben più grande del solo fatto dell'unificazione italiana. Se guardiamo al Risorgimento quale esse dai saggi, non numerosi, ma sempre densi di contenuto e brillanti di stile, che Ernesto Sestan ha dedicato a vari temi riguardanti quel periodo storico, alle problematiche che vi emersero e a qualche uomo che vi tenne campo, ci accorgiamo subito che il suo Risorgimento è fatto poco di monarchi, di ministri, di generali e di eroi. Il Risorgimento, insomma, non come una galleria di ritratti d'uomini che hanno fatto l'Italia o come poesia epica, ma come idee, perché è con esse che si fa la storia e con esse che si ripensa la storia. Parlando nel 1964 dello stato degli studi storici sulla liberazione del Veneto, evito tutte le citazioni perché sono anche contributi conosciuti, Ernesto Sestan sottolineava le due condizioni per le quali soltanto la conoscenza e la comprensione del Risorgimento poteva essere storia e non qualche cosa d'altro. Uscire, cioè, dall'epos e fare storia integrale del paese, non limitandosi al processo di unificazione nazionale e agli uomini e correnti politiche che la vollero. Quanto alla prima condizione, egli diceva con molta misura, ma con molta fermezza, che si tratterebbe in sostanza di dover passare dall'epos alla storia, e fino a ieri, con lodevolissime eccezioni, la storia del Risorgimento, ivi compreso questo nome fascinoso ed emotivo è stato spesso più epos che storia. E perché così sia stato, e non poté essere diversamente, anche questa è materia di considerazione storica e nella storia trova la sua considerazione polemica. Se Stan rinnovava, nel così dire, una sollecitazione venuta già all'inizio del secolo da Benedetto Croce, quando osservava che la storiografia del Risorgimento è in gran parte una storiografia poetica, cito, ricca di leggende che aspetta ancora gli storici o li ha incontrati solo talvolta e per caso. Che se Stan riprendesse ad invitare a far storia del Risorgimento e non altro, ancora nel 1964, segnò che egli ne avvertiva ancora il bisogno. Il periodo di mezzo, ingolfato dal nazionalismo fascista, autoproclamatosi legittimo erede e prosecutore del Risorgimento, aveva fatto anch'esso e a modo suo una sua scelta retorica tra eroi e non eroi, tra voci autentiche e non autentiche del Risorgimento, e non era stato certo quel periodo il più idoneo ad uscire dall'epos, vero o falso che fosse. Neppure lo era stata la stagione del secondo dopoguerra, quella che tutti ricordiamo della dissacrazione del Risorgimento, non per anco finita, sull'onda e sulla spinta di concezioni e progetti politici imperanti sul momento, furono alzate sugli altari le cosiddette vittime del Risorgimento, le masse popolari, le correnti antirisorgimentali e i loro uomini, le province meridionali, che era un modo anch'esso di fare dell'epos, seppur a rovescio. Sulla base della, cito, valutazione dei puri interessi materiali e del progresso sociale, scrisse Sestan nelle considerazioni sullo stato attuale degli studi storici, si concludeva che il moto nazionale unitario fu sostanzialmente sterile e quasi inutile. Continua la citazione. Una conclusione che pare di leggere tra le righe in molta produzione storica recentissima, soprattutto sulle province meridionali. Quasi una filosofia, se merita il nome Augusto di filosofia, del si stava meglio quando si stava peggio. Non credo, scrive Sestan, che questo modo di vedere le cose possa dare la chiave per penetrare nell'intimo del moto risorgimentale. Così nel 64. E ora quella filosofia è tornata in parte di moda in questi ultimi mesi, in una polemica che riveste i suoi termini rispetto ad allora, poiché sono le province settentrionali ad alzare la voce come vittime del Risorgimento e dell'unificazione. Una voce politica d'oggi non storiografica e che non interpreta il Risorgimento, ma attribuisce ad esso, con senso di insoddisfazione e ribellione, l'attuale stato di cose dell'Italia di cui veramente siamo tutti insoddisfatti. Non è che Sestan non abbia veduto le insufficienze presenti nell'azione di governo degli uomini del Risorgimento ad unità compiuta, che anzi le ricorda e le sottolinea con ironia bonaria, ma non perciò meno accorata, come quando scrive, riferendosi alla destra e al barone di Ferro, che, cito, fra i tanti centenari potremmo anche celebrare quello del fallimento della riforma burocratica, questione che era anche allora, dopo il 61, primaria, specialmente in uno Stato che si stava costruendo nelle sue strutture amministrative dopo essersi appena costituito territorialmente. Ma questa ed altre osservazioni critiche che Sestan reca nella lettura che gli fa del Risorgimento non lo portano a sminuire d'una virgola la positività e il valore culturale e civile e politico del moto risorgimentale italiano, valore nei confronti dell'Italia e dell'Europa. Se veniamo ora alla seconda condizione indicata da Sestan, perché vi sia storia del Risorgimento e non solo visioni settoriali e parziali di esso, cioè storia reale, non mitica o distorta, egli, questa condizione, la pone come necessaria quando esista il carattere e natura di integralità della storia. Anche su ciò il suo pensiero è preciso ed esplicito. Dopo aver ancora una volta osservato che, cito, il terreno in cui la storiografia risorgimentale ha più largamente lavorato, obbedendo al criterio dominante che fosse compito suo, compito della storiografia, quello di studiare tutto ciò, pensiero ed azione, che convergesse o sembrasse convergere direttamente verso il processo dell'unificazione nazionale, si augurava, proseguo la citazione, che vi fosse una ricostruzione storica di tutta la vita del paese, in tutta la sua straordinaria varietà di situazioni, di pensieri, di atteggiamenti, di impazienze e di stanchezze, di partecipazioni e di assenze, anche in ciò che contrariò o ritardò quel processo unitario, o vi restò estraneo, o meramente ricettivo, e come e perché contrastò, ritardò e rimase estraneo.